Vi sono episodi che fanno parte del patrimonio culturale di un popolo. Che siano veri o siano leggende non è importanza. Essi vengono tramandati con tale frequenza da penetrare il substrato di una nazione al punto che parole, poesie, romanzi, spettacoli, battute, sottointesi, ne sono coinvolti. E poiché tali episodi vengono tramandati da secoli o millenni, a nessuno viene in mente la possibilità di metterli in discussione. Sia che siano leggende o fatti veri, devono rimanere tali quali vengono tramandati. Una narrazione o interpretazione diversa disorienterebbe, nello stesso modo in cui si sarebbe disorientati essendo per anni abituati a percorrere un sentiero in una fitta boscaglia. E se tutto ad un tratto questo non ci fosse più, o prendesse una direzione a noi sconosciuta? L'abitudine è molto confortevole, impedisce nuovi adattamenti, nuovi interrogativi, non spiazza, non crea degli shock. Perché crearsi dei problemi, perché porsi degli interrogativi quando ormai per secoli o millenni le cose sono state intese così? Sono domande più che giuste e anche sagge quantunque si trattasse di favole o leggende. Tanto non cambia niente che la nostra eroina sia stata salvata da un giovane e bel cavaliere con il cavallo bianco, dalle prese di un drago a sette teste o da un reale feroce leone, poco importa. Lo scopo della leggenda è che la bella amata sia stata salvata. Anche il colore del cavallo non ha importanza. Se era Sauro, era comunque un cavallo. Non è così, però. Quando il racconto non è una leggenda, ma un episodio storico. Quando Cesare, passando il Rubicone, disse «il dato è tratto», l'evento non può essere un altro, perché Cesare non poteva esprimersi in un altro modo, non avrebbe potuto passare il Po. Perché in questo caso la storia sarebbe diversa, senza senso. Se la storia esige una rigorosa realtà, a maggior ragione un evento a sfondo religioso. E questo per due motivi. Perché la fede esige la verità e il fatto storico può condizionare la fede religiosa. Se Gesù non fosse morto, non avrebbe potuto risorgere il terzo giorno. Se non fosse Dio, tutto ciò che ha detto sarebbe falso. Dunque, ciò che fa parte del patrimonio religioso in una cultura deve attenersi rigorosamente al vero, anche se per millenni è stato tramandato in modo errato. Uno degli eventi storici più grandi che esistono è il racconto della creazione. Non tutte le religioni attribuiscono alla loro divinità, come invece fa il cristianesimo, la creazione di ogni cosa. Perciò è rigorosamente doveroso essere certi che ciò che leggiamo nella Bibbia, e soprattutto nel libro della Genesi, sia conforme alla realtà. Questo dato di fatto sferza un pugno nello stomaco a coloro che vedono nel racconto della creazione una favola, un mito o una leggenda tramandata per secoli o millenni. Se il racconto della creazione non fosse vero così come lo troviamo descritto nella parola di Dio, innanzitutto potremmo anche inventarne un altro che sia più coerente al nostro punto di vista attuale, il che sarebbe veramente un'impresa titanica. Inoltre dovremmo dichiarare bugiardi Gesù, il figlio di Dio, gli apostoli e tutti coloro che sostengono la creazione avvenuta tramite Gesù Cristo. Infatti, in merito al problema del divorzio, Gesù dichiarò che il Creatore fece un maschio e una femmina, rifacendosi solamente a ciò che c'era scritto nella legge che si legge. Gli apostoli, dal canto loro, hanno stabilito delle dottrine di fede, come quella dell'universalità del peccato, basandosi esclusivamente sul racconto della creazione. Se Adamo ed Eva non sono stati i progenitori della razza umana e non hanno disubbidito al Creatore, allora la base della fede cristiana, che Gesù è morto per tutti perché tutti hanno peccato, è errata e se è sbagliato il fondamento, tutto il resto di conseguenza crolla. Non è possibile per nessun motivo tollerare alcuna interpretazione sbagliata della parola di Dio. Come è risaputo la Bibbia, quale libro e messaggio pervenuto da parte di Dio, è stata scritta in ebraico per quello che riguarda l'Antico Testamento e in greco per quello che riguarda il Nuovo Testamento. Perciò tutte le versioni che possediamo sono delle traduzioni più o meno fedeli al testo originale secondo quanto il traduttore ha saputo trasmetterci. Così, chi legge la Bibbia, se non è in grado di verificare i testi nella lingua originale, è costretto a fidarsi di ciò che il traduttore ha tradotto. Mentre è difficilissimo che un traduttore sbagli un'intera proposizione o un concetto, egli è molto più soggetto a sbagliare nell'interpretazione di una parola. Come in tutte le lingue, vi sono parole intraducibili e altre che hanno molti significati, e di conseguenza bisogna tenerne conto perché una parola sbagliata può travisare completamente un concetto. Se io dico che il letto del fiume è pieno anziché piano, comunico un aspetto travisato. Vi è nella cultura cristiana un episodio biblico che da secoli si tramanda e che mi ha sempre dato da pensare, e non solo a me. Si tratta della creazione di Adamo ed Eva. Leggiamo l'episodio in questione. L'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, e prese una delle sue costole, e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolta all'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo. Come si è detto in precedenza, non da tutti. Questo episodio viene ritenuto storico, ma comunque è conosciuto da tutti. È riproposto in ogni poro e alito della società. Ciò che per un periodo di tempo mi ha sempre dato da pensare leggendo di quando l'Eterno prese una costola da Adamo per formare Eva, era se Adamo avesse di conseguenza un costola in meno rispetto ad Eva. Arrivai al punto di formulare questa domanda al medico. Avendo ricevuto una risposta negativa era confuso più di prima, perché non riuscivo a far quadrare ciò che leggevo è la realtà alla quale assisto. Se la donna non ha una costola in più rispetto all'uomo, le ipotesi erano due. O veramente il racconto era solo un'allegoria, per cui non ha importanza che l'Eterno abbia tolto una costola ad Adamo per formare Eva, perché il messaggio comunque rimaneva, e cioè che la donna proviene dall'uomo, oppure capivo malamente ciò che leggevo. In seguito mi sorse un altro dubbio. Poteva darsi che il traduttore avesse tradotto in modo imperfetto qualche parola. Così feci delle ricerche. Risulta che la parola ebraica tradotta con costola è TSLA accento grave H e si trova 48 volte nell'Antico Testamento. 4 volte è tradotta a zoppicare. 4 volte è tradotta a inciampare. 38 volte è tradotta A. un lato di due. B. un fianco. C. una parte di due. D. due volte costola. Genesi 2, 21, 22, cioè nel brano della creazione. Con queste proporzioni di probabilità è molto difficile pensare che la parola ebraica zer. Molto probabilmente il traduttore, trovandosi incerto e tenendo presente che l'Eterno stava creando un altro essere come Adamo, ha ritenuto più opportuno tradurlo con costola. Certo è che non avrebbe sbagliato se avesse tenuto conto il maggior numero di termini con il quale viene tradotto questa parola. Tenendo presente il maggior numero di volte nelle quali viene tradotta la parola ebraica tzelah, e cioè un fianco, un lato, una parte, la descrizione della creazione di Eva va letta così. Allora l'Eterno, Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, prese una parte, o metà di lui, e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio, con la parte che aveva tolta all'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo. Dunque Cristo non prese una costola ad Adamo, cioè un osso, ma una parte della sua carne e con la quale formò Eva. Questo cambia molte cose. Qualcuno ha fatto notare che alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, possiamo comprendere il modo usato da Dio per la formazione della donna. L'essere umano è composto di 60.000 miliardi di cellule. Ogni cellula ha 46 cromosomi. Nel maschio sono presenti 23 coppie di cromosomi chiamati XY. Nella femmina sono presenti 23 cromosomi identici chiamati XX. L'Eterno tolse una metà dell'uomo, quella che contiene la X di tutte le cellule, è subito duplicata. Richiuse la carne sopra d'essa. Così l'uomo rimase integro. Con questa metà dell'uomo, per duplicazione mitosi, l'Eterno Dio ha formato la donna. E tutto questo sotto forma di anestesia. Il profondo sonno. Di fronte a tale meraviglia scientifica e storica, non si può che rimanere ammaliati. Altro che favola. Altro che parabola! Il racconto della creazione è veramente avvenuto? Così come è descritto. L'unico problema quando si legge la parola di Dio consiste solo nel verificare se le traduzioni sono esatte. È vero che non tutti sappiamo leggere il greco e l'ebraico, ma è però altresì vero che possediamo tante traduzioni, buoni commentari, libri di testo. Quando leggiamo qualcosa che non ha senso, come nel caso della costola di Adamo perché l'uomo non ha una costola in meno rispetto alla donna, siamo in obbligo di verificare se il traduttore ha reso bene dalla lingua originale. Se è così, allora anche se da secoli c'è stata tramandata la storia della creazione di Eva che è stata tratta dalla costola di Adamo, dobbiamo rifiutarla. Non sarà facile, perché le favole spesso sono più difficili da sradicare che le cose vere, ma vale la pena mettersi al fianco della verità perché sorgerà una generazione che porrà fede in fatti storici non solo veri, ma anche realmente accaduti nei minimi particolari. Gennaio 2005. Ellero